faceva vedere a me, io senza patente e senza niente, allora non erano i controlli di oggi, polizia e balle varie, e tanti, e dunque avevo, sapevo guidare bene, e allora mi sono iscritto alla scuola guida per avere la possibilità di prendere la patente, e avevo fatto solamente 12 guide, ne dovevo fare 24 di lezioni. Quando questo istruttore mi ha visto che sapevo guidare discretamente, mi ha detto no, non c'è bisogno di fare tutte le altre cose, quasi quasi ti presento all'esame, faccia così, mi presenti all'esame, mi ha fatto firmare tutte le lezioni, perché allora si firmavano ogni lezione, dovevi mettere la firma, e me le ha fatto firmare tutte 24, no? Per far figurare che io avevo fatto le guide giuste che dovevano essere così in regola. Mi ha presentato alla guida e ci sono riuscito subito alla prima, ma sapevo già guidare benissimo, capito? Altro, per cui il trucco c'era sempre, e io con solo 12 guide, io altre 12 non le ho fatte, e mi ha presentato alla guida senz'altro, all'esame. Adesso si firma il cartellino, c'è tuttora, Giulio. Io ogni guida che faccio devo firmare il cartellino, è uguale come prima. C'è il cartellino del guidatore, una cosa del genere. Sì, io non so adesso come oggi, però appunto io ti sto dicendo, io ho fatto l'esame in febbraio del 1966, ti puoi immaginare, sono già passati 58 anni che ho la patente io, per dire, no, era così, e tu ancora oggi mi stai dicendo che è così anche oggi. Prima mi avevano fatto firmare tutte le guide, come se ne avessi fatte tutte 24, no? Evidentemente la motorizzazione ti chiedeva le guide, il numero di guide fatte, tutte al completo, me le ha fatte fare come se io le avessi fatte, a me non mi pago davvero, così almeno me ne sono liberato subito, e mi ha presentato dopo pochi giorni, mi ha presentato all'esame, mi ha presentato, sono riuscito subito tranquillamente senza nessun problema. L'esame l'avevo fatto lì salendo in Viale Trento, nella salitona di Viale Trento in salita, sono partito, poi ho girato che via era quello per scendere verso, per andare via Monsignor Malongio, da lì su, e va a fare l'inversione a U, ha girato l'inversione a U tranquillamente, a posto, tutto, in un attimo, infatti anche il coso, l'ingegnere, era l'ingegnere Fiorino, mi ricordo che si chiamasse, così ricordo ancora bene il cognome, tranquillamente, detto, bravo, bravo, bravo, e così via, capito? Dove c'è dalla prima, tranquillamente. A me invece, non mi ricordo adesso quello che me l'ha data, come si chiamava, ma è una brava persona proprio, ma mi ha detto così, cioè io lo lavo già come ho capito, mi ha detto lui, fatta è, ho detto, prima, ma cioè, siccome avevo fatto uno sbaglio lì dove c'è il tappetino, ovvero ho fatto un accenno di entrata a senso unico, però non l'ho fatto, però mi ha bocciato lo stesso. Una volta, la volta scorsa non è stata mia, è stata colpa di quell'imbecille là, vabbè. Ma mi ha fatto rifare tutto, mi ha detto guardi bene tutto, guardi bene gli incroci, guardi bene tutto. Dove c'è il tappetino lì, mi ha fatto rifare tutto. Poi mi ha detto, alla fin fine mi ha detto, sai signor Maru, trova la strada migliore per andare a scuola guida, sciogliti, mi ha detto, vai, ha detto, me lo vedi, fatta è, state attento, non l'ho portata a scuola guida, guardi, si fermi qua, mi ha detto, si parcheggi, si fermi qua, venga a fermare, ta, la battente, cazzo quanto ho festeggiato. Beh certo che sì. No, ma poi io già sapevo guidare, anche perché quando avevo il foglio rosa, mi ricordo, dove c'è adesso Corte Santa Maria, no? Lì a Recuncio, diciamo, là. C'era lì, indietro il fornitore, c'era uno che dava le macchine a noleggio, no? E mi ricordo, io e un amico avevamo preso la macchina a noleggio, solo a me non me la davano perché io avevo solo il foglio rosa, però potevo guidare insieme ad una persona che avesse la patente, no? E questo mio amico aveva già la patente prima di me, aveva già presa, e dunque io guidavo, e avevamo preso la macchina in società, io e lui, no? Tutta la giornata intera, e avevamo preso, mi ricordo, un maggiolino, la Volkswagen, no? E tutto il giorno avevamo la macchina a disposizione e abbiamo pagato metà per uno la spesa più la benzina, abbiamo messo tutto metà per uno, insomma. E però guidavamo un po' io e un po' lui, e nonostante che io avevo solamente il foglio rosa, ma siccome c'era l'autista a fianco a me, avendo il foglio rosa potevo guidare tranquillamente. E ci siamo andati a Osilo, io, lui e con il maggiorino, e una sagrepa di amici, altri 4-5 amici con un LCB5L, una macchina che pariva una macchina del Presidente della Repubblica, quanto era bella, blu, proprio, che era di un tassista, amico tassista quello lì. E la sera siamo andati a Usilo, una domenica, e siamo scesi in una discesa talmente ripida che tu non hai idea. Beh, lo sai che a salire il 2005 non ce la faceva da solo, abbiamo dovuto spingere a salire, perché slittavano le ruote, slittavano, mentre invece il maggiolino saliva tranquillamente quella salita. Per dirti, no, Anto, com'era la storia allora? Erano le macchine, sì, erano. Beh, il maggiorino già aveva un motore, tutto il rispetto, il sistema Porsche, andava molto bene, andava. Poi è pesante questa macchina, però va a forza. Sì, e se lo sto dicendo, tranquillo, sei pacifico, senza nessun problema. E invece quella là, caspita, oltre all'autista, ci siamo dovuti scendere tutti quanti dalla macchina e cercare di appesantirle, no? Perché se gli davano le ruote, ci davano a vuoto, perché si vede che non faceva molto attrito la strada, perché era talmente in discesa questa strada, parliamo che per stendere un campanile, era sempre. Non ce l'ha fatta salire, cioè ce l'ha fatta dopo che abbiamo aiutato noi anche, cercando di spingerla, appesantendola il più possibile dietro, capito? Abbiamo fatto così, e poi piano piano ce l'ha fatta, fin quando non si è agganciato bene le ruote a terra, già poi già ce l'ha fatta. Ma per dire, mentre invece il maggiolino non c'è stato bisogno di niente, quindi buone morte e parti tranquillamente, era pesante quella macchina, consumava, vero che era una dragonaia, il maggiolino era una dragonaia, però era una grande macchina, una bella macchina veramente, spaziosa, molto spaziosa dentro. Ma un attimo di bianco che era di Giamburbanolino, anche che se l'ha fatta addosso. Ok, Anto, sono qua. Buonasera, dai, ti do il cambio io, Anto, cambia il pannolino. Buonasera a tutti e due, ciao Giulio. Ciao Fra, ben ascoltato, dopo un bel po' di tempo, come va? Giù sempre battagliando, come si dice. Quei giovanotti, quei vecchietti, da una parte all'altra, sono grandetti, dai. E tu, tutto bene? Sì, tutto bene. Grazie a Dio, tutto bene, Fra. Stiamo tirando a campare, dai, invecchiando chiaramente, ma è giusto anche così. Però tutto a posto, dai. Ogni tanto devo fare controlli, ma il controllo adesso devo fare alla fine di dicembre o il primo di gennaio. Naturalmente dovrò fare appuntamento, perché spazio per appuntamento non ce n'è più. Come ho fatto l'ultima visita, l'avevo fatto a pagamento lo stesso, ma quella risale già a gennaio scorso. L'avevo fatta lì, l'attacco di controllo a 270 euro l'avevo pagato, e adesso dovrò fare la prossima, no, non l'attacco ma l'ecografia, mi hanno consigliato, dice non c'è più bisogno di fare l'attacco, fai solamente l'ecografia e basta, e più la cistoscopia devo fare sempre, sempre per il controllo. Venga, guarda, ogni tanto un tagliando di controllo anche tu, dai. Stai parlando del Maggiolone, caspita, una bella macchina. Se non sbaglio, quella era anche a trazione posteriore, perché il motore ce l'aveva dietro. Forse per quello che attaccava bene. Sì, quella attaccava bene, sì, caspita, si attaccava bene. Era il 1500L, cioè praticamente il 1500 della Fiat, quella bella, un bel blu. Sembrava la macchina del Presidente della Regione, di quanto era bella. Mi ricordo quando uscivamo tutti in greppa, seduti dentro quel 1500, che era del fratello di un mio amico, no? Però cosa succedeva? Siccome il fratello era un tassista, allora era lui il tassista di 600 multipla, no? Lavorava anche la domenica, e allora il 1500L lo prendeva questo suo fratello, gliela dava, e mettevamo la benzina e ce la andavamo in giro. Lui salendo ad esempio, so che sono io al corso, allora se saliva tutto il corso lungo, parliamo di quelle della provincia, il presidente della provincia sembravamo facendo gli spacconi, sai, Giovanotti, quella via, eravamo tutti ragazzi, e tra l'altro anche peccato di questa, cioè Gianni Cabeccia si chiamava, era una bravissima persona, purtroppo si era ammalato ed è morto. Vabbè, purtroppo succede. Però non ricordo se fosse a trazione anteriore col motore posteriore o motore anteriore e trazione posteriore, tu ti ricordi? No, la macchina, il motore era avanti, però la trazione era sempre posteriore, infatti l'abbiamo dovuta cercare di spingerla per attaccare a terra, più possibile spingendola, e allora ce l'ha fatta ad agganciare l'asfalto e ce l'ha fatta a salire, ma era un'errata della volta, era una macchina bella, ma bella, bella, bella, sto dicendo che era meravigliosa, sempre bella lucida, bella pulita, perché infatti... Gianni la prendeva con la macchina soprattutto perché il fratello gliela dava perché la doveva pulire da fare eccetera. E in cambio se l'aveva a disposizione tutta la serata, tutta la giornata della domenica soprattutto, e ci divertivamo in tanti voti. Io che andavo, dice, a vedere la donna con la balinita in campo, dicevamo dov'era, andare lì a cosa, come si dice, lì verso il Palmato, dove c'era, non mi ricordo come si chiama, la città sommersa, che poi sommersa non c'era accidenti. Ti ricordi come si chiama quel lago lì? Alia Mascosso. Un attimo di bianco. Chi era quello avanti? Cosa, Alia Mascosso? Non lo capisco, tu l'hai capito cosa ha detto, non l'ho capito bene. Lo so che tu sei sordo, balla, purtroppo la vecchiaia, ma c'è la parete acustici, ma noi andiamo a sorso. Ma che sia Torello, sì, sempre trampanato, dici tu, forse sia Torello, sì, lo so, la vecchiaia, e tu sei ragazzino ancora, ma giornalmente sei stato in carne, avanti fra. Sono ragazzino un corno. Allora, ma perché stai uscendo così, se puoi sapere? Ma non te la puoi mettere a posto questa antenna, ma quando mai? Ma non me ne frega niente a me di pensare l'antenna, la mantova, mi è sceso il fumo, ma se con lo stai cazzo, a un certo punto, a me conviene, aspetta un attimo, però sono là. Eccomi, scusate, ma ho avuto una telefonata, Giulio. Io qui, vabbè, non c'è problema, figurati. Antonello, che sta, non sta uscendo molto bene, qui da me non è che arrivava anche bene, come segnale magari è basso, vabbè, e la radio non è che sia delle migliori, comunque già ho capito che è lui. Avanti Antonello, che c'è Franco, dai. Ho detto, mi è sceso un fulmine a casa, non hai capito, quindi ce la faccio a mettermi una tela grande, non me ne frega niente, hai capito, è finita l'era per me, non mi faccio prendere... Cioè mettere fuoco alla casa per un baracchino. Ma sembra con gaggone. Da 100, 300 euro, non esiste, hai capito? Da Santiago 1 mi stai arrivando, mai visto così basso. Comunque ti ascolto. Ciao anche Antonio, avanti Antonio. Ehi, ciao anche a te. Io ti ascolto segnale 9, sono con la magnetica, con la antenna della macchina, la prima. Quindi figurati tu. Male, attore, sei messo male come trasmissione, radio cupa, brutta, e segnale scadente, vabbè. Avanti Antonio. Ehi, ecco qua, adesso sono preso l'altra stazione. Eccomi qua. Abbassa la radio, se no mi faccio adesso. Addirittura così forte sono. Rispetto agli altri stanno scendo più soft, dai. Sei a fondo scala qua. Anche tu sei oltre 9.30 qui, quindi rispetto agli altri sei fortissimo, capito? Kappa, adesso sono passato con l'altro radio, col Cobra. Kappa. Ehi Antone, 30 anni dice non mi è successo niente, il 31 anno è successa qualcosa. Però, può succedere a tutti, attenzione, pure a me può succedere, non è che io sia immune. Cioè che possa succedere un qualcosa, c'è sempre un'antenna sotto la testa a me. Io vabbè, per fortuna sto molto attento, quando non ci sono, stacco tutto. Già lo so, infatti. Adesso mi ha chiamato stamattina Antonio, mi ha chiamato, e quindi mi dà tutta la sensazione e me la penso a casa. Antenna completa, è capito? Uguale a quella che ci hai detto. Mi dà quanto l'hai pagata tu, mi dà il cavo, mi dà l'alimentatore, l'osmet, tutto mi dà, hai capito? Papà, è successo, non si sa pa cosa. A tutti può succedere, a tutti. Purtroppo il fulmine non perdona. Io tento sempre, quando non ci sono a casa, o di staccarne il tutto. Poi? Lo so, ma anche, la verità, purtroppo mi ha pigliato in pieno a me, quindi a un certo punto mi ha fatto danno. Quindi io mi auguro che non capita a nessuno una cosa del genere, perché se capita a qualcuno, sta tranquillo che da minimo 6 mesi c'è un lato centrale dallo shock, hai capito? Lo shock che uno riceve per avere un fulmine dentro a casa che ti prende fuoco, cazzo, 2 televisori e tutto il resto, solo quello. Lo so, Antone, cosa vuoi fare? Purtroppo è andata così. Ma se ho capito bene, Antone, ti è entrato il fulmine e ti ha bruciato il baracchino? Fammi capire, fammi la fonte tua, Antu, perché io lo sento male. Fammi la fonte tua eventualmente, Antu. Antone, così ti è entrato il fulmine e ti ha bruciato il baracchino? No, il baracchino, grazie a Dio, non l'ha bruciato, hai scelto cambi coglioni, ma comunque sia, l'antenna, la TV, 2 televisori, me l'ha crepato, dillo tu, lo sai anche tu, anche. Praticamente, Gabri, basta, praticamente gli è entrato, cioè il fulmine gli ha bruciato la TV, gli ha fatto un sacco di danno, capito? Per quello che è successo quello. No, ho capito, e vabbè, quello è successo anche a me qualche anno fa mi aveva bruciato il router del computer, mi aveva bruciato, un piccolo alimentatore lineare che avevo appena preso da Gianni di seconda mano, che poi non ho avuto modo nemmeno di usare perché mi era bruciato subito il fulmine. E poi mi aveva bruciato l'alimentatore, switching da 25 ampere e un baracchino mi aveva bruciato. E il fulmine non perdona, quello è sempre una questione di fortuna. Speriamo che non succeda mai a nessuno, ci mancherebbe altro. Avanti Franco. No, anch'io, come dice Antonio, quando c'è tempo brutto, temporale in vista, scariche elettriche, tanto già le senti arrivare dal baracchino, stacco le antenne, a volte stacco anche quelle dei televisori, se è proprio brutto. Avanti Antonio. Non credo già che devi staccare tutto, devi staccare tutto perché sennò ti fa danno, ti fa. Io fortunatamente, cioè, spero che non succeda mai, perché è un attimo mi. Ma quando l'altra notte ho sentito bum bum bum bum, ciao a tutti, io stacco e me ne vado. Ma immediatamente, hanno aggiudicato l'OBL, vai, che non fa danno in occhi. Pericoloso. Io perlomeno temo. Poi molti dice che hanno messo questi cosi a scaricatura a gas, che se ti entra il fulmine ti, come si dice, non te lo fa entrare, entra prima lì e non fa danno, dicono. Una vita in capitano. Una vita da meccanico. Beh Luca, buonasera. Che beh, mi sentivo che parlarci. Ciao Luca. Buonasera a tutti Gap, non so se mi ascoltate con questo citofono dalla SIM, dalla SIP. Chiaro, recovalo. Avanti Giulio. Ok, chi è entrato? Luca è entrato. Ciao Luca. Sì, ma è così, io sono stato vittima di un fatto del genere, saranno 5 anni fa più o meno. Mi aveva bruciato le stesse cose, ma io non c'ero a casa, ero ancora a lavoro, per cui non ho potuto staccare niente. però io faccio la stessa cosa, se durante il giorno o durante la notte sento, anche se sono le 2 o le 3 del mattino, e sento che ci sono che c'è temporale, oppure che ci sono i tuoni molto vicini, che poi naturalmente sono sempre susseguiti dai lampi, allora scendo e sacco tutti i televisori eccetera, ne avevamo 5, io ne ho 5 qua a casa, televisori tutti collegati, sì, che ti puoi immaginare, anche perché l'anno che era successo a me qui alle punte aveva fatto un disastro, aveva bruciato tante di quelle cose, frigoriferi, scaldabagni, addirittura motore, il meccanico che c'è a 800 metri dove sono io, le aveva bruciato il compressore, cose che non aveva bruciato, un po' tutti, però purtroppo non ci puoi fare niente in questi casi qua, addirittura il lampo qui aveva bruciato anche l'ingresso di una casa che c'è a 200 metri di radare dove abito io, fuori, davanti alla porta, c'è il collegamento del gas, no? Del gas di città, quello che la gente ha. E beh, le ha spaccato il tubo e si è incendiato, sono dovuto arrivare i pompieri per spegnere quel gas lì, perché davanti alla porta questa aveva la fiamma alta, rapida, bruciando alla più non posso. Tutto questo opera di questo fulmine che era caduto a 200 metri in linea d'aria da dove abito io, ma aveva fatto un disastro quasi generale qui alle punti. Va bene, avanti. Un attimo, stiamo parlando. Capo, chi vuole entrare avanti? Stavo cercando il capo, stavo uscendo. Ho passato il capo di canale, ho scatenato questo volontà. Ciao Bru, ciao Bru, ben ascoltato dopo tanto tempo. Sì, l'altro è la Duca, abbassa il microfono però quando entri, abbassa il microfono perché non si capisce niente, che è troppo forte. Avanti Franco. Sì, sì, sento anch'io Bruno, lo saluto, un abbraccio anche da parte mia. Avanti Bruno. Sì, ciao. Non penso che sia così alto, perché a 5, l'ho sempre stato a 5 io il microfono, strano che sia così alto, prova giù, vai. Abbassa Luca, abbassa ancora un po', è troppo forte, dà fastidio anche, perlomeno a me mi dà fastidio, verità. Poi tu fai come vuoi, però te lo sto dicendo, per me la radio è troppo forte, ed è anche, oltre che non si capisce molto bene, è anche fastidiosa. Va bene, facciamo girare, avanti Antonio. Sono entrato. Come va? Meglio? Guarda un po', adesso è a 1, guarda un po', e giù, se la passano troppo non esci più. È fortissima, va bene così, lasciala così va bene, è inutile avere il microfono a bomba perché è solo fastidioso, e poi supermodula e non si capiscono bene le parole, soprattutto tu che parli in una maniera abbastanza veloce, per cui diventa difficile anche capire tutto quello che dici, capito Luca? Non è che te lo sto dicendo così per mio ufficio o per mio muscolo, è perché effettivamente è così. Magari te lo confermano anche gli altri. Avanti Franco. Sì, no, Luca esce sempre fortissimo, anch'io dico sempre di abbassare. Fatto abbassare anche Antonio, perché anche Antonio esce forte. Purtroppo poi c'è altra gente che magari che trasmette da più lontano o che si arriva un po' più bassa. Tu tendi ad alzare e poi ti arriva questa botta di radio dagli altri, che insomma, è impressionante. Ho sentito che è rientrato anche Pomponio, avanti Antone. Guarda un po' come sto scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, qui arrivi malissimo qua. Cambia posizione di antenna, bu. Ma me sì, no, non ho problema. A me arriva bene, fai un po' prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. No, per picchi di 9, 5. La radio è bassa, non è la solita radio, ma già va bene, dai. Forse magari fra emano ricezione confrontando voi. E giù, io l'ho sempre usata a 5, non so poi gli altri, va bene adesso Antu? la microfonia, va bene per te? Sì che va bene, a me va bene, non ho un problema. Ma l'ho usato sempre a 5, boh. Non lo so, vabbè, comunque. Cioè va bene, dai. Poi non so chi c'era, boh, non mi ricordo, il Franco, poi chi c'era, non mi ricordo, avanti. Ah, facciamo riprendere a Bruno, avanti Bruno. Ma è Lillo. Ciao, umida. Questa carrettina qui del 2018 che funziona. Va bene Giulio, riprendi e dimmi dove va. Ok, andrò, riprendo io, sì, va bene, vado invecchiando. Io spero di invecchiare a lungo, però. 82 primavera sono passate, Bru, 82 e mezzo, per cui fatti un po' l'idea, però grazie a Dio sono bene, non ho nessun problema. È un periodo, diciamo che tutto quest'anno non ho avuto nessun problema nella maniera più assoluta, a parte il discorso dei controlli che devo fare periodicamente, ma quelli li faccio per prevenzione, che è ovvio, è normale, no? E tu, tutto a posto, Bru? Insomma, diciamo di tirare avanti, così di tirare in campo. Purtroppo io ho migliorato, però vabbè, là, di tirare avanti, e cosa non fa. E non mi ricordare l'età, per piacere, se ne sono già arrivato un euro, stanno centrati quasi 70 anni. 70, io qua arrivo 70. 82 ne ho compiuto io, 82 in aprile ne ho compiuto, praticamente 82 e mezzo, vado per gli 83, se Dio mi assiste, sarò paziente, cosa ci vuoi fare? La vita purtroppo lo sappiamo che è arrivata una certa età e è in discesa, e come viene se la devi prendere, la devi accettare. Avanti fra. Mi hai fatto tornare in mente un mio collega che ha il padre che insieme abbia 98 anni, ma ancora guida, sono di sosto tutti e due, padre e figlio, però no, sono tanti anni che non ci parlano perché il padre aveva abbandonato la famiglia, se ne aveva fatto un'altra e quindi non si parlano. E quando si incontrano il padre di 98 anni gli dice al figlio, vieni tanto muori prima tu, Giulio. Addirittura, da 98 anni, è 98 anni, una bella età veramente, ma comunque lo sappiamo, perlomeno in Sardegna, io già mi accontenterei dell'età di mia madre, guarda, mia madre è morta che aveva 95 anni, per cui mi accontenterei, poi non lo so, lo saprà il destino, lo saprà, cosa ha riservato per me. Avanti Antonio. Va bene dai, cosa? Cappa, ma non lo chiedere a Bruno, ma dove sto dicendo, che cosa sto dicendo con? Gabri, non gridare! Volevo chiedere, ma che cosa sto dicendo? Dalla macchina sto dicendo? Sì, sono in macchina, però adesso non sento di quello che l'avete fatto su, per tutto, stato per far sentire con gli amici, perché non puoi entrare, per il tuo riscaldo, per cui. E' una di quelle meno turbo, come sai che si chiama, non avessi niente, questo di quelli che lui, profita un po'. Sì, no, ma stai arrivando benissimo, stai arrivando, sì, oltre le 9.25, sì, non so in che zona ti trovi, però sei fortissimo qua, sei molto, molto, molto forte. Ma sono le queste, vicino alle queste, va. Come? Non sono vicino alle queste, sai la via, cioè da luna sole che va verso le queste, è così ovvio. Tu sei fortissimo, mi sta arrivando una bomba. Ma con questo microfonino originale che tutti mi dicono che sto dando. E ho l'altro paracchino che fa il preamplificato, l'hanno messo per sentire meglio, invece non è mai andato bene, per cui sto usando questo, è così che usavo a casa. Va bene, avanti, chi vuole riprendere? Avanti Giulio. Ok, riprendo io allora, visto che mi avete rilanciato. Sì, beh certo, sì, saltiamo nuovo quando ti arrivano quasi, oh Bru, dalle 15, tu sei innamorata di quella zona, e fai bene perché è una zona ottima per poter trasmettere, non c'è problema. Se avessi avuto anche un microfono un pochino più performante sarebbe stato ancora meglio, però già va bene ugualmente, non c'è problema. Vediamo un po' Luca. Luca? Sì, sono qua, dalla Pidurco. Ebbene, non rilanci, vabbè, avanti fra. Capo, una bella zona quella, è zona alta, no? Come la mia. Va bene, stavi dicendo Giulio che hai preso la patente lì all'Olimpia, forse ne abbiamo già parlato. Ti ricordi se c'era ancora, se c'era già mio zio Giovanni Barone? Barone, sì, un uomo un pochino calvo, un po' robustello, che faceva l'istruttore di guida. Sì, quello era mio zio, Giovanni Barone, era le gambe sottili, non so perché, forse perché era sempre seduto in macchina, però sopra era un omaccione grande, bello massiccio. Sì, è stato lui il mio istruttore di guida, è stato, che poi mi ha fatto solo lezione per 12 volte. A differenza di quanto ne avrei dovuto fare, che erano 24 allora, ha visto che guidavo bene, discretamente, allora mi ha presentato agli esami, mi hanno presentato e mi hanno fatto firmare tutto il resto delle guide che mi mancavano, perché ci facevano firmare, no? E mi avevano presentato e ci sono uscito alla grande, anche perché ormai già guidavo da prima, io guidavo anche abusivamente quando rientravo la notte e andavamo a Usini, allora facevo l'elettricista e lavoravo da Pino Mu a Santa Maria, no? Lavoravo e c'era un radiotecnico nel laboratorio che era di Usini e con l'autista tutte le sere bisognava andare a prenderlo, bisognava, cioè a portarlo a casa, a venire veniva la mattina evidentemente col Puma, non lo so, veniva da solo, però la sera al rientro si vede che non c'era il Puma e allora lo doveva accompagnare l'autista a casa sua. E andavo anch'io insieme all'autista, al ritorno faceva guidare a me questo signor Mario, un uomo grande come era mio padre, per dire più o meno dell'età di mio padre, e mi faceva guidare, ma allora era anche possibile perché pattuglie di polizia non ne trovavi una ogni volta di pappa, capito? Per cui non c'era problema. E guidavo tranquillamente dalla 600, quella con lo sportello a cosce di donna, quando scendevano le donne gli si vedevano le mutande, perché era la prima serie della 600, il principale aveva quella macchina lì allora, e guidavo io tranquillamente e dunque non c'era problema. Praticamente quando sono andato alla scuola guida ero già preparato come in fatto di guida perlomeno, poi in teoria lo stesso l'avevo fatta, ma anche lì ci sono uscito al primo esame, non c'era problema. Ok, riprendi Bruno. Bruno che ha lavorato alla motorizzazione ti può dire tante belle storie di queste cose. Avanti Bruno. Fino a poi il titolare di Olimpia io li ho conosciuti perché dal 78 che ho cominciato loro venivano già da noi, capito? Per cui diciamo che ho conosciuto Olimpia, Olimpia 2, tutte tante con le scuole, io, tutte fino alle scuole di 10 anni fa, diciamo che ho avuto modo di lavorare di conoscere tutti gli istruttori, anche perché un attimo di bianco. Sì, è una bella avventura, è stata, i primi anni era, allora questi dell'Olimpia avevano, erano 78-79, una vecchia 600 facevano la quasi tutti avevano la 600, anche i tempi che avevano la 600 che avevano più sono 50, poi hanno cominciato a cambiare le macchine, ma io ho conosciuto tutto, almeno quei tempi, i tempi degli anni, negli anni 70. Sì, allora le prime macchine erano proprio quelle, la 600 con lo sportello che apriva davanti, anzi che controvento apriva, per cui era quella, sì, fece così. E va bene, e cosa dire, niente di particolare, no, io addirittura sto parlando, quando ho preso la patente io eravamo nel 66, ti puoi immaginare, 1966, parlo della patente della macchina, però prima ancora avevo la patente della moto, come ce l'ho ancora oggi, tutti e due ce li ho, e per cui sono passati già solo dalla macchina 58 anni, più 3 o 4 anni della moto, siamo lì oltre i 60 anni di patente. Avanti Franco. Franco deve essere impegnato al telefono, riprendi tu Antonio. Antonio? Chi è che sta parlando? Non so se basso, non capisco. Dice Costantino, cos'hai detto? Costantino? Boh, non, Non ricordo di averti mai sentito, perlomeno con questo nome, non lo so. Ma sei lontano, perché mi stai arrivando basso di segnale e soprattutto basso del radio. Io sono Giulio, tu sei Costantino, poi ci sono altri amici, c'è Franco, c'è Antonio, c'è Bruno, c'è Luca, poi c'è anche Antonello Pomponio. Riprendi, vediamo se ti sentono meglio loro e fai girare tu, vai a Costantino. Non ho capito perché, la verità, scusami, ma non ho capito, troppo bassa la radio. Il segnale potrebbe essere anche ristretto, non è che sia fortissimo, però siamo intorno a Santiago 8, però la radio è molto, ma molto bassa, molto bassa. Vediamo un po' se si è sentita. Forse ho capito, dice che sei dalle parti di Franco, così hai detto. Poi me lo confermeranno se ti hanno sentito gli altri. Franco, sei rientrato? Sì, capa, scusate, ero al telefono, come hai ben indovinato. No, qui non arriva proprio niente, zero completamente. Riprendi, Giulio. Ok, infatti, no, boh, me la passo di capire che diceva solo dalle parti di Franco, boh. Non so cosa dirti. Antonio, tu l'hai sentito questo amico Costantino? Antonio è impegnato col bambino, sicuramente. Luca, ci sei ancora? Luca ci abbandona ogni tanto, c'è arrivato Bruno. Bruno, tu lo senti? No, io ho appena fatto delle modulazioni sul fondo, ma non capisco niente di ciò che dico. Avete gente che modula sul fondo, per me è veramente un caso, non so se lui, io faccio queste voci, però questo amico che parlava con lui è tutto zero, non lo capisco più. Capo, anch'io zero proprio completamente. Quindi tu hai lavorato alla modulazione molti anni fa? Infatti sono da modulando, E io quando ero 78 ho terminato nel 2014, per cui... Perché io ogni tanto collaboravo con, però noi, io lavoro in ferrovia, quindi tramite le ferrovie andavamo lì a dare una mano per archiviare un po' di pratiche. Caspita, noi siamo conosciuti, caspita, ci siamo conosciuti, perché chi arrivava da lì, o chi arrivassero il falegname, chi arrivassero il lavaggista, chi arrivassero i centri, non so se c'era il centro di Giovanni Strana, i centri lì, e venivano sempre da noi a dare una mano, perché spesso, essendo lo stesso ministro dei trasporti, io sono Santino, ero il più giovane a quei tempi di Renzo, parlo di tanti anni fa. Figurati che nel 1980, quando abbiamo cercato il bancone in ufficio, abbiamo cercato un personale della ferrovia. Io una volta ho girato, visto i vetri che ci sono sul bancone, mi hanno fatto girare, mi ricordo qualcosa, forse quei tramezzi in vetro, forse prima erano fuori o viceversa, sono stati messi al contrario, dai. E quelli dove li avevamo messi noi, mi ricordo che, non so, magari abbiamo una vera protezione, perché mi ricordo che allora prima non c'erano così, non abbiamo pensato bancone, nell'80 ci hanno dato una mano, erano venuti a Vignani, e poi c'erano... che lavoravano uscite via, dopo di prendersi via, non so la facevano nei mezzi, e poi erano venuti anche la magistra a darci una mano, perché prendevamo la lavorazione, era chi voleva venire, allora erano felicissimi per noi, ci stavamo meglio, sì, già sicuramente ci siamo conosciuti, e poi c'erano anche un paio di scorse che venivano da lì, tipo altro, eccetera, ma non mi ha mai trovato, si chiamava, comunque, da così portò Giovanni Sana, che poi parlava sotto lui. Sì, infatti Giovanni Sana forse prima di noi siamo, dopo, io sono entrato in ferrovia nell'88, quindi dopo l'88 sicuramente anni 90, buh. Ma prima veniva molta gente, se veniva da negozio, da oggetto per l'assigliare per fare, noi eravamo scocchi, diciamo che da noi non era più vista la figura magari delle pedaide, eccetera, qui avevamo tanti affari, noi siamo salvati le ferrovie. E loro venivano volentieri, perché figurati, loro facevano anche straordinari, prendevano il dosso di straordinari di quanto prendevamo noi. Per cui dovevi già correndo. Chiedo scusa agli amici, sì, per cui ci davano anche la trasferta perché eravamo fuori sede, dai. Avanti, meno si è rientrato Antonio. Ci sei Antonio? Certo che ci sono. Adesso prima si dava una scuola guida all'esame. di teoria, adesso ci danno la motorizzazione, caspita. Io ho fatto la motorizzazione. Ogni cosa, cioè ogni batticuore che è quel posto. C'avevo anche che si batteva il cuore a mille quando. Mi ha detto Antonio, Antonio Maruta si è ammesso, io cazzo ho fatto una festa. Porca miseria! Anch'io l'ho fatto lì l'esame, invece come Giulio la guida l'ho fatta lì all'Olimpia. Avanti Giulio. Ok, sì, beh sì, infatti l'Olimpia di via Armando Diaz, mi sembra che sia quella via lì. Tu pensa che l'Olimpia ce n'è un'altra che è qua proprio di fronte a casa mia, 20 metri nemmeno, 10 metri più spostati, però di fronte. Quella di fronte a casa si chiama Olimpia 2, quell'altra non lo so adesso se è la stessa gestione, perché l'altra si chiama Olimpia ugualmente, però quella di via Armando Diaz e questa invece della via dove abito io. Olimpia 2, va bene, che fanno anche il rinnovo patente, eccetera, eccetera. Infatti l'ultimo rinnovo l'ho fatto qua di fronte a casa io, il rinnovo della patente, per 2 anni, perché sono vecchietto, solo per 2 anni me l'hanno rinnovata, adesso lo devo rinnovare di nuovo il prossimo aprile, quando compirò gli 83 anni. E vabbè, comunque tiriamo avanti. Antonio, guarda che c'è questo amico, si chiama Costantino, vedi se lo senti bene tu, perché io sinceramente non lo sento, lo sento bassissimo. Avanti Costantino, ti rilancio, vediamo se ti sente Antonio. Faccio quello X io, perché non sento niente, che è entrato già nel ritardo della modulata, faccio quello X, ciao. Okay. Avanti Costantino, ma non arrivare su Costantino. Chi è che è entrato? Chi è questo Gianni? Ah, Gianni, do più rumo? Avanti già. Siamo tutti orecchie, siamo. Oh, no, deve essere entrato magari in qualche altro canale e quindi gli fa battimento magari. Dice che non ci sente più. No, non c'è. Sono io che ce li ho vicino. Capisci? Sono io che ce li ho vicino, dovrei farti abbattimento a me che a te. E magari il nostro apparecchio non le risente, dipende che apparecchio c'hai. E come no? Già lo sento, però li compraccio. Li sento purtroppo. Li sento perché ce li ho vicino, ce li ho a pochi passi. Avessi avuto, come si chiama, i Midland, quelli che prendono colpi a tutte le parti, non senti nulla con quelli, dai. Un po'. C'è ancora Antonello Pomponio? Non c'è, Giulio? Sì, Costantino, ho sentito una leggera modulazione ma non ho capito ben niente. Costantino, mi dispiace, guarda, no? Gli altri amici non ti sento, io ti sento quasi niente, per cui non so cosa dirti, cerca di migliorare la tua stazioncina e poi così avremo modo di parlare a lungo con piacere, ma in queste condizioni non è possibile, non è assolutamente possibile. Ma chi stava chiudendo, che era splatterato, chi era? Bruno, era Bruno, tu vedi? Sì, era Bruno, confermo. Ok, era splatterato, ma forse perché Bruno era la parte alta, magari da quelle parti lì ci sarà stato Roberto che lo stava splatterando sicuramente. Io penso che sia così. Va bene, dai, riprendi anche tu. KK, io ho alzato un po' gli ormeggi, ho alzato, cioè, da molto tempo che no, se no magari mi si guasta, com'è a fondo scala, vero? Sì, a fondo scala, non ce n'è bisogno, dai, puoi anche staccare, figurati. No, adesso sono passato per un attimo sul 23, Gianni che stava splatterando a Bruno, a quanto sembra, ma è sul canale 23, Gianni, doppio room. Riprendi Gianni, riprendi Franco. Ho fatto anche una spazzolata veloce, c'è gente sul 23, però grazie a Dio, vabbè, la mia antenna non è in aria, quindi non prendo colpi da nessuna parte. Avanti Antu. Io purtroppo sì, perché ce li ho attaccati, ce li ho vicino, però mi sento lo stesso e non ho problemi, capito? Capo, ho provato anche quando tu stai parlando, adesso eri agganciato, un paio di canali ti sento, per due o tre canali ti sento, poi invece tranquillo, ma ripeto, questo apparecchio è molto selettivo. Ho detto prima che mi seguassi, lo facciamo andare un pochino e via. Ma spera che hai più attenuo, metti la portante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola. Adesso sgancia. Guarda a vedere. Agganciato. Sei agganciato. Da 9, ti ho attenuato però, da 9 scendi a 1 e mezzo. Ma va bene, dai. Guarda grande, aspetta che sollevo, solo non sento a Giulio. Giulio, riprendi? Ok, certo. Sì, va benissimo, Antonio, già c'è bene, non c'è problema. Puoi modulare anche, anzi, anche sganciato o Antonio, non c'è problema. Il segnale è alto lo stesso, senza bisogno di arrivare a fondo scala. Non c'è problema. Sì, beh, Gianni sul 23, evidentemente è entrato lì su quel canale, allora stava trattenendo Bruno, stava trattenendo, è per quello che lo sentiva. Magari anche Bruno sarà passato lì sul 23 allora per fare questo, non lo so. E va bene, dai, comunque ci siamo più di un'ora adesso, di un'ora, ma forse un'ora e mezzo, vero tu? Siamo almeno un'ora e mezzo noi per questa, vero? Siamo almeno un'ora e mezzo. Non va bene, almeno ci abbiamo passato la serata. La facciamo andare questa. Si guarda, la gamba giubbetta di Guisantenna, sono troppo contento. Guarda, no, non me ne pento assolutamente, una bomba, Cioè. Io penso che non abbia niente a che vedere con la Mantova, Cioè, una bomba vera questa antenna. Cioè, c'ha tre radiali, ed è abbastanza, molto valida, dico la verità. Sì, certo che sì. Oh, va bene, non c'è niente da dire, va benissimo, glielo credo. Poi nella posizione dove ti trovo, il palazzo è alto e tutto, per cui va più che bene, no, non c'è problema. Io sono sempre con la solita antenna, Franco suppongo anche con l'auto costruita, perciò va bene così. La mia è in basso, sempre la Game Master, però in basso, ma comunque già vanno bene, mi sentono anche a Belchida, penso un po'. Questo me l'hanno confermato che mi ha sentito, per cui no, non c'è problema. Avanti fra. Sì, sicuramente stai usando poca potenza, perché prima mi ricordo che eravamo più forte. Sicuramente sei al minimo. Invece Antonio cosa era? Una Venom? No, c'ho una GPE dell'Assirio. Quella tre radiali, che è uguale alla Midland pure. Non accendere l'altro baracchino che fischia, me lo rompi. Gabri! Adesso la cerco, come GPM hai detto? GPM della mia, della Sirio. La Midland fa la Energy, fa è uguale, precisa identica. Solo che la mia c'è la differenza che in cima c'è questo affare per le scariche, tutto particolare, capisci? E c'ha ogni giuntura c'ha le vittine, c'ha fatta così. La Midland la vende di più, la Sirio un po' di meno. GPS Sirio si chiama, ma è uguale, c'ha tre radiali ed è alta, mi pare 6,50 m, non mi ricordo. 5 ottavi o mezz'onda? 5 ottavi. Adesso la cerco. Non ha giù molto ghita, ma qualcosa, ma voluta 5 ottavi. Perciò va più che bene, uso sempre così, non c'è bisogno di aumentare troppo. Comunque guarda, così magari sono 10-12, ma questo è il massimo e non di più. Mentre invece poc'anzi, ecco, così adesso è 2, e così di nuovo 10-12, e così di 2, ecco, così 2 watt, vai fra. Cambia, da 3 con picchi di 4-5 passi a 9 più 10. Certo che sì, considera che l'antenna mia è bassa, poi considero anche la posizione come ce l'hai tu piazzata l'antenna, e dunque è 2 più 2 fa 4. Avanti Antonio. La K, l'hai trovata? Stai smettendo su internet. È precisa la cosa, la... come si dice? Ah, la quella che fa la Midland, la Energy. È uguale, cioè praticamente. Allora, sono su Media Globe, la dà 60 euro e c'ha in testa una specie di sfera, boh, sicuramente per i fulmini. Quella lì. Lunghezza 6,50 metri, e l'hai già colladata col vento? Tranquilla? Certo, cosa li fa? Non li fa nulla, no? Perché ogni cosa non esce nemmeno, ti puoi immaginare. Solo quello di sopra per misurare e stazionare, boh. Tutti i tubi, quando è piazzata, non si sfida nemmeno, immaginiamoci la porta che ha. Venga, il prezzo è anche abbastanza abbordabile, dai, rispetto ad altre antenne. Avanti, Giulio. Sì, Antonio, c'è bene, poi ha una posizione invidiabile, oltre al palazzo dove abita, che è alto, per cui lui ce l'ha proprio sul tetto, no? Non c'è problema, io no, non ce l'ho più, io nella posizione alta, ce l'ho nella posizione bassa della casa, prima avevo dall'altra parte almeno 3 metri solo di differenza di casa, dalla parte davanti alla parte di dietro, poi c'era un tubo da 6 metri e c'era la mantova turbo sopra, per cui era molto ma molto più in alto. Invece oggi ce l'ho ad avanzare, tu immaginati ad avanzare di un primo piano, è attaccata lì, c'era un tubo da 2,20 metri, saranno 1,50 metri, non di più, e dal tetto è distante siano 1,50 metri, 1,70 metri dal tetto, perché tutto il resto è del tubo, è attaccato ad avanzare, no? Per cui va bene solo lo stesso. Mi è molto comoda, tu pensa che quando ho necessità mi metto una sedia, sollevo il braccio e stacco il piede, pertanto per dirti anche altezza ho la mia antenna, è una posizione molto bassa. Vai. Sì, comunque l'importante è che ci ascoltiamo, dai, l'importante è quello. Stavo leggendo il carico, non devi superare i 250 watt continui, mi occhio. Oh, Antu. Ma è troppo bassa, no? Quelle antenne non è che rendano al massimo, no? No, stavo leggendo questa che hai tu. Può reggere picchi da 750 watt, però continui non devi superare i 250 watt. Non so quante le dai tu in antenna, bu? Anto? Svegliato col bambino sicuramente. E lui ogni tanto quando... Se ne esci di gabbo, visto? Circa 200, per quanto ne so io, è così. Comunque non credo che possa superare la portata dell'antenna, la potenza che gli dà. Comunque va benissimo, anche senza attaccare niente, va molto bene. Lui, ripeto, ha una posizione invidiabile, in aperta zona, diciamo, e dappertutto, poi i palazzi sono alti, perciò la posizione è invidiabilissima, quella di Antonio. Va bene così, va bene. Avanti Antonio, prendi. Stavo facendo il birichino Gabriele, quindi sono dovuto andare a prenderlo, perché ogni tanto me ne combina una. Io non ti preoccupare, già siamo grandi con Giulio, già le capiamo certe cose, anche noi abbiamo avuto bambini, ormai sono grandicelli, dai. Che zona sei, Antonio, puoi dire? La più dolce, sono zona ufficio collocamento. E quindi una bella zona, dai, aperta, dai. E a Puglia. Però ho notato che nella zona di su, tipo da Roberto, arriva fortissimo. Perdo, non ho capito perché, un pochettino nella zona di giù. Perdo qualcosa. Tipo lì punti, vabbè, forse da Giulio arrivo fortissimo ancora. Però un pochettino più giù perdo qualcosa, ma non assai. Ma non credo. Io ho messo un negativo verso Alghero, vabbè, ma perché non lo vedo. Comunque ci ho parlato una volta, mi sembra che fossi in banda laterale con Alghero, Avanti Giulio. Ok. Anche tu Fanno, è che arrivi basso qua da me, arrivi abbastanza bene. Sì, lo so in che condizioni esci, lo so benissimo, però sei oltre il 9, per cui va benissimo così, non c'è problema. Ma tutto sommato non c'è bisogno che di arrivare con un segnalone proprio altissimo, perché intanto quando la radio è perfetta, buona, come la tua, come la mia, come quella di Antonio, che problemi abbiamo? Che te ne frega se poi anziché arrivare a 9.10 o 9.5 o 9.20 arriviamo a Santiago 7, 8 o 3 o 4. Interessante che la radio arrivi bella, bella, forte e limpida, come l'acqua Recoaro. Vero, vero, fra. Luca, c'è ancora. Dai, io adesso preparo qualcosa da mangiare, vi saluto, mi ha fatto piacere ascoltarvi tutti e due. Speriamo dai di avere qualche minuto in più alle prossimine. Ok, un abbraccio a tutti e due, riprendi Giulio. Entro per farvi un salutino, ciao fra. Ciao Gianni, un abbraccio. Ciao a tutti, dai, vi saluto. Ciao Gian. Mi hai distrutto a Bruno oggi, ce l'hai sblatterato da tutte le parti. No, sono andato e gli ho bruciato il baracchino. Metti fuori quarantena, vai. Dai, un abbraccio a tutti, ciao anche a te Bruno. Ciao, anche io sono andato a sentire Gianni, perché quando parlavo con lui, sentivo a lui. Sono vado, mi metto a casa e ti dico l'antenna. Ciao a tutti, comunque anche io sto respirando, ciao Gianni. Ok, ciao fra, grazie per la chiacchierata, dai. Fatti sentire, magari la sera se coincide, scambiamo ancora due chiacchiere. Ok, ciao Gianni, ben arrivato. Però sei arrivato tardi, però vero, su questo canale. Un cazzo ti ho sentito che per un attimo sono passato perché avevo fraterato a Bruno e Bruno ha dovuto smettere che non, forse non ci sentiva noi, perché tu lo fraterati. E per un attimo sono passato e ti ho sentito che sul 23. Con piacere ti avrei ascoltato ugualmente, ma io ormai ero qua su questo canale con altri amici, perciò non potevo abbandonare. Comunque salutoni. Alle prossime, dai, sono le 8:20, sì, quasi, per cui io devo fare terapia adesso e sarà un po', perciò rilancio a Antonio, faccio un altro passaggino e poi chiudo. Ciao Bruno, se stai chiudendo, salutoni anche a te, alle prossime, fatti sentire, e avanti Antonio. Salutoni a Franco. Cosa c'è? Ce la risentiamo alle prossimine. Bruno, dove sei? Se ho visto che stai viaggiando con la macchina. Adesso sono alla zona bassa. Sto scendendo, siamo al chilometro, alle luci gialle. Chilometro, tra un po' dovresti vedere, a me dovresti vedere, perché io abito, non abito molto lontano da lì. Ma dove abito io, di vicino c'è? La mia tre radiali, la mia. Cioè, si vede, non so dove si, praticamente si vede lì nella via che entri qua, in via Vasco de Gama, là. Si vede molto bene, c'è un punto dove si vede molto molto bene. Però la mia rimane in piazza Botte, ho capito? Il KK, vedi, stai arrivando forte già. Vabbè, prima sì, sì, sì. Adesso questo mi ha toccato 9.30 in questo ultimo passaggio. Ciao Antonio, grazie anche a te per la chiacchierata. Gianni, se ci ascolta, salutoni. Alle prossime, dai, io chiudo per due motivi. Uno, perché mi devono telefonare adesso fra un po'. E secondo, perché devo fare terapia. O meglio, prima terapia e magari dopo la telefonata. Alle prossime, dai, ascolto il finalino e poi chiudo. Vai Antonio. Ciao, ciao Giulio, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao, ciao. Avanti o... o Bruno o Gianni, che c'è? Beh, riprendo io. Giulio, ciao, grazie per il questione, ma io ho il canale 23 già sintonizzato da ieri, come acceso, ho sentito gente e mi sono fermato. Vabbè, dai, a me fa piacere andare a tutti i canali, trovare gli amici, dai. Vabbè, ciao Bruno, ciao anche Antonio, io sto andando a portare giù il cane perché sennò mi morsica pure. Ok, Gianni, ciao già di nuovo. Salute. dottori alle prossime, è tutto a posto, non c'è problema, figurati, ci mancherebbe altro. Ciao ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Franco, ciao ciao a tutti, ciao Bruno, chiudo definitivamente, ciao, chiudo. Ciao Giulio, stasera, va bene, ciao a tutti, anche io sto chiudendo, ci sentiamo la stasera, ciao. Ciao, adesso sei vicino, sei a fondo scala. Allora, sono andiamo a Bellini, che via è quella dietro via Bellini? Bellini, non me ne ha messo, no? Sì, sì, sì, è a fondo scala, se sei vicino a casa. Aspetta, guarda, c'è un garage lì dietro, quella via che vado vale, una volta, la via che andava fuori, la via. Guarda, io già ti sento sempre, non è un problema. Ciao ciao, avanti già. Danni ci sei.